La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:30 primi e 36 secondi e oggi questa sigla, The Future Isn't There, mi pare avere un significato un po' diverso da tutti gli altri giorni. Questa è una puntata speciale ed è una puntata speciale perché è dedicato a un uomo speciale che ci ha lasciato qualche ora fa, a 86 anni, è morto Marco Pannella, abbiamo avuto la notizia alle 13:45. E io costerò un dovere civile dedicare questa finestra di informazione, molti altri lo faranno, a tentare di fare il punto su Marco Pannella, che cosa ci lascia in 86 anni, di cui la stragrande maggioranza con un impegno politico che nella storia italiana è stata completamente diversa da quello che fin da quando iniziò negli anni 50 tradizionalmente associata all'idea di impegno politico nel nostro paese. Ecco, quello che non mi potevo immaginare è di piangere quando ho letto la notizia, e lo ammetto, non mi capita proprio con questa frequenza. Io, come tanti, l'ho conosciuto negli anni 70, ho avuto spesso a che fare con lui in quella prima parte della mia vita in cui facevo politica nel Partito Repubblicano, tra i giovani repubblicani, condividendo molte iniziative libertarie. Quello che voglio dire prima di dare la parola agli ospiti e di farvi sentire un primo brano che dà l'idea di che tipo fosse Marco, Giacinto naturalmente di nascita, lo sapete benissimo, voglio dirvi semplicemente tre brevi cose sul perché mi è venuto da piangere in quel momento, perché per chi come me non si riconosceva nella Prima Repubblica, sono cresciuto nella Prima Repubblica, non credeva affatto in quel sistema dei partiti così in moto, democristiani da una parte, comunisti dall'altro, ecco, Marco Pannella era l'unica persona che incessantemente dimostrasse che si poteva e si doveva fare in una maniera diversa. Cioè, per chi è libertario, io sono libertario, sono diventato libertario nella vita, cioè quindi c'è un libro di riferimento, quello di Ayn Rand, in Italia letto pochissimo, in inglese il titolo è Atlas Shrugged, cioè la rivolta di Atlante, e non stiamo parlando di Atlante, il salvabanche italiano, stiamo parlando di un uomo che punta tutto su se stesso. Ecco, Marco Pannella insegnava che la politica, anche nella Prima Repubblica, dove tutto sembrava in moto, erano gli stessi e sempre a governare, l'opposizione era sempre l'opposizione, si poteva fare e si doveva fare politica in maniera diversa. Da socialista liberale, da liberale liberale, cattolico liberale, come volete voi, era fuori da tutte le definizioni, ma su temi concreti per far andare avanti la società italiana. Tutti lo ricorderanno, come ovvio, per le sue battaglie con decenni di anticipo sui diritti civili, gli dobbiamo il divorzio, gli dobbiamo l'aborto. Meno lo ricorderanno con soddisfazione per la sua battaglia decenni prima contro il finanziamento dei partiti, i privilegi dei politici, la partitocrazia, l'informazione di Stato e di regime. Molti hanno continuato a non capire fino alla fine il suo impegno contro questa abbastanza insopportabile regime carcerario che nel tempo non siamo riusciti a cambiare ed aprire in una maniera civile. Non hanno mai capito e sopportato le sue battaglie antiproibizioniste sulle droghe leggere e così via, il suo impegno contro l'accanimento terapeutico e per il diritto a una morte dignitosa. Potremmo andare avanti per tantissimo tempo, ma questo è il primo punto. Lui dimostrava che si poteva, senza avere dietro sindacati, soldi dall'America o dalla Russia, eccetera eccetera, cambiare con pochi voti ma con grandi battaglie chiare che andavano decenni avanti e spaccavano la politica e costringevano la politica a prenderne atto su temi che erano quelli delle libertà, e quindi è stata una grande lezione. La seconda cosa è che anche nella Seconda Repubblica lui ha tentato alleanze con la destra, poi con la sinistra, poi ha trovato una strada diversa da quello del Partito Radicale, che aveva rifondato e riguidato due volte negli anni 50, negli anni 60. Capì a sue spese e di chi lo seguiva che nella destra, nella sinistra, neanche nella Seconda Repubblica erano in realtà buoni compagni di strada. Si inventò altre strade, il Partito Transnazionale, eccetera eccetera, fece una scelta che molti non hanno capito, la lista Pannella e così via. Ma detto tutto questo, anche nella Seconda Repubblica non è mai stato zitto su quello che erano le promesse non mantenute. Io ci litigai brutalmente nel 1992 in Transatlantico, poco prima delle elezioni di Scalfaro. Oscar Luigi Scalfaro divenne il suo candidato alla presidenza della Repubblica dopo l'assassino di Falcone che travolse la candidatura di Andreotti. Non capivo e non capii mai questa scelta. Negli anni successivi poi litigò anche brutalmente con Oscar Luigi Scalfaro, fino al punto tale quando Scalfaro disse da Presidente della Repubblica che con lui la separazione delle carriere, la battaglia per la giustizia, è stata una grande battaglia liberale di Marco Pannella. Giunse a dire lo stesso Pannella, che pure l'aveva voluto, era stato formidabilmente decisivo verso Craxi per fargli abbracciare il candidato Oscar Luigi Scalfaro dopo Andreotti, e Pannella gli disse sul muso che con la sua dichiarazione da capo dello Stato contro la separazione della carriera era al limite dell'impeachment per un capo dello Stato. Quindi uno che anche nella Seconda Repubblica ha capito per tempo che gli schieramenti contrapposti non si occupavano tanto del merito dei problemi. La terza cosa, e ho finito, è che era un uomo di grandi contraddizioni umane, ma fortissimamente capace di rompere i luoghi comuni su una cosa fondamentale, che è fondamentale nella vita civile come nella vita di ogni noi, che si chiama l'amore. E è stato in questo anche nemico di se stesso, ha cresciuto generazioni intere di straordinari politici che non lo facevano per soldi, Mellini, Stanzani, Crivellini, tanta gente che è passata nel Partito Radicale, oggi ne avremo alcuni, e a cui poi fino a Emma Bonino non ha mai avuto la forza di dire davvero vai e prenditelo. In questo suo amore aveva, come sempre nella vita di noi tutti, un grande difetto, un grande limite, ma contemporaneamente era una cosa che a tanti politici manca, cioè quella di essere capaci di amare a tal punto da entrare in contraddizione manifesta con stessi principi che si dichiarava a volte. E pensate che nel 1987, 29 anni fa, era capace su un tema che è diventato di attualità in Italia solo in questi ultimi anni di dire queste cose in piazza. Però compagni e compagni, amiche e amici, di qualsiasi, guarda, la persona a 50 anni è una coglionata, poi ne parliamo, perché la pensione, che era una battaglia di liberazione 60 anni fa, oggi rischia di essere una condanna alla morte civile di donne e uomini che hanno il diritto, la pienezza, la capacità di lavorare, le prime pensioni, le pensioni ai funzionari di partito, le pensioni ai parlamentari, le pensioni ai dirigenti, ai consiglieri regionali, provinciali, comunali, le pensioni a tutti e la pensione ai parassiti. Noi dobbiamo rivendicare il diritto del tempo libero e del tempo di lavoro in un ambiente diverso per tutti. A 70 anni si è giovani se si vuole, a 70 anni ci si può amare, fare carezze, sorridere, essere ricchi della propria saggezza e forti e capaci di dare grandi contributi. Ecco, in anni, decenni prima della riforma Fornero, era un uomo che sapeva andare contro i comuni e dire: ma quale baby pensione? Il contrario, bisogna invocare la dignità di una vita lavorativa protratta il più a lungo possibile, nella dignità. Faceva a pezzi i regimi privilegiati, i cui privilegi continuiamo a pagare anche dopo la Fornero nei regimi speciali della Previdenza. Sì, era liberista, era contro i grandi gruppi pubblici, ma non solo per questo mi piace, ma mi piace per le tre cose che ho detto prima, e forse anche per questo soprattutto ho pianto e non me ne vergogno. Allora, il primo ospite a cui chiedo, osservatore di lungo periodo della politica, della vita, del costume italiano, è Mario Aiello del Messaggero. Grazie di essere con noi, Mario. Buonasera. E dovessi dire in 3, 4, al massimo 5 minuti che cosa, per chi non ha conosciuto Marco Pannella, lo considerava negli ultimi anni una specie di vecchio pazzoide, un vecchio ferrovecchio, eccetera, eccetera, e dovessi dirgli invece in che cosa secondo te il suo lascito è imperituro, che diresti? Io gli direi questo, che la sua è stata la grandezza di essere contro, ma sempre per qualche cosa. Cioè era l'opposto dell'agitatore. E poi gli direi che non è vero affatto che era un profeta. Ora leggo sui social, è morto un grande profeta. Era un politico. È morto un politico, un grande politico. Cioè aveva il realismo dell'impossibile, che spesso rendeva possibile, come abbiamo visto nelle sue grandi battaglie, soprattutto degli anni 70. Una cosa che anche direi, e che non è mai riuscito però nonostante tante vittorie, ad essere un uomo non di minoranza, cioè aveva la vocazione minoritaria. Craxi, prima di andare ad Hammamet, volle vedere Pannella e gli disse: guarda Marco, ti lascio in eredità un'area laico-socialista del 20%, adesso tocca a te. Ecco, per esempio, Pannella non è riuscito a, non dico a essere il padrone di quell'area, cioè in quel momento a raccogliere un testimone che gli veniva passato. Ecco, secondo me, personalmente, quello purtroppo è stato il suo fallimento. Forse aveva le carte per non fallire in quel caso. E Craxi, un politico bravissimo, tutti noi sappiamo, aveva visto giusto quando lo convocò e gli disse così. Oltretutto era, per così dire, Pannella mondo da molti dei difetti che poi portarono alla fine di Craxi, ma è lo stesso errore che poi fece più avanti alcune elezioni europee fa, quando intorno a Emma Bonino si raccolse una percentuale che i radicali non avevano mai avuto in Italia. Sì, sì, è proprio questo. Quindi ecco, il suo limite nell'enorme grandezza del personaggio è stato proprio questo, cioè di non saper poi raccogliere i frutti di tutte le sue idee azzeccate. Io direi che tu prima citavi attraverso le parole di Pannella stesso la battaglia sulle brevi pensioni, non me la ricordavo, giustissima. Quella sulla giustizia è stata forse ancora più giusta. L'isolamento che in quella battaglia sul garantismo lui ha subito da parte dell'intera sinistra è stata forse una delle pagine peggiori della storia politica italiana. Molti pensano che in realtà la sua carica di provocazione per una giustizia giusta, candidando per esempio condannati per terrorismo di destra e sinistra, non solo Tortora, che era agli occhi di tutti, no, vittima da grande giornalista di uno dei più terrificanti casi di mala giustizia, ma anche appunto terroristi di destra e sinistra, Toni Negri e così via. Alcuni dicono che in quel modo Pannella ha ritardato, se non impossibilitato addirittura, per la reazione che ricevi tu dei partiti tradizionali, della sinistra innervata in Magistratura Democratica, la possibilità di una vera riforma della giustizia. Tu che dici? Io dico che hai ragione. Io dico che proprio diciamo questa natura sovversiva delle sue idee sulla giustizia hanno fatto scattare il riflesso condizionato conservatrice dell'egemonia culturale italiana e quindi proprio è stata edificata una trincea di paura rispetto alle idee garantiste di Pannella, il quale candidando Toni Negri per esempio lui era convinto che il suo carisma potesse permettere qualsiasi cosa. Una volta ebbe l'idea addirittura di candidare Di Scioggelli. Andò a Palermo a casa di Sciascia e gli chiese: ma Leonardo, tu che ne pensi? Sciascia, che come sappiamo è una persona di pochissime parole, scuotendo leggermente la testa gli disse: penso che forse non è opportuno. per Pannella avrebbe candidato Gelli, convinto di poter controllare politicamente anche questa mossa. Magari ci sarebbe riuscito, non dico di no. Ma io non lo so, io consideravo comunque quella strategia trasversale degli estremi per dimostrare che appunto non lo faceva applicando il garantismo agli amici propri e il giustizialismo ai nemici politici propri, come si continua a fare ancora adesso barbaramente nella Seconda Repubblica. Aveva una carica, tu dici sovversiva, io dico avversiva rispetto alla tradizione italiana di tenersi giudici amici a seconda di come si pronunciano verso la propria parte politica. Certo, gli effetti poi sono stati quelli della chiusura. Comunque grazie a Mario Aiello per la sua testimonianza. E un'altra persona che ha guardato con grande attenzione da giornalista nei decenni all'area culturale e alle tante iniziative di Marco Pannella è Pierluigi Battista, che è con noi. Grazie Pierluigi. Ciao, grazie a te. Anche a te faccio la stessa domanda. Dovessi dire a chi ci ascolta che considerava Pannella solo negli ultimi anni una specie di vecchio sopravvissuto un po' pazzoide che diceva cose abbastanza incomprensibili, cosa diresti per ricordare in 3-4 minuti ciò che resteremo a dovergli per lungo tempo? Ma guarda, intanto una cosa importantissima secondo me, al di là dell'aneddotica, Pannella ha introdotto la dimensione dei diritti individuali come esatto. Cuore e centro della battaglia politica. Questo non esisteva. Nell'Italia del dopoguerra le culture politiche dominanti erano culture politiche che consideravano con sospetto l'individuo, che consideravano i diritti civili come un lusso. E questo sia nella tradizione comunista che nella tradizione cattolica, nella sua declinazione democristiana e aggiungo anche nella sua dimensione strettamente laica, diciamo, dei partiti storicamente laici, il Partito Repubblicano e il Partito Liberale. Quindi il linguaggio dei diritti civili nella politica italiana l'ha introdotto Marco Pannella, punto. Cioè non c'è secondo me discussione su questo. Esatto. Negli anni 70, cioè quando si parlò, cioè nel periodo che è intercorso tra la legge sul divorzio approvata dalla legge Baslini-Fortuna e il referendum dei democristiani, voluto dai democristiani, questa è una cosa che forse, perché poi si dice, ah, il referendum voluto da Pannella, no, il referendum fu voluto dai democristiani. Certo. Le forze laiche, tra l'altro non c'erano i sondaggi, forse era meglio così, o comunque i sondaggi erano molto rozzi, grossolani, così tutti pensavano che questa battaglia sarebbe, la battaglia sul divorzio sarebbe stata perdente, sconfitta, si cercavano compromessi con la gerarchia vaticana, ma non era una cosa molto sofferta, perché era vabbè, ma insomma ci dobbiamo andare a rompere le corna per una cosa, per una questione, ma la classe operaia mica divorzia, e la concezione della famiglia, questa è la prima dimensione, diciamo così, che Pannella ha introdotto. La seconda, che hai appena detto tu, parlando con Mario Aiello, cioè, diciamo così, il garantismo vero, autentico, per tutti, ricchi e poveri, destra e sinistra, amici e nemici, cosa che non succede da nessun'altra parte, nel senso che il garantismo della destra sappiamo che cosa è stato, il neogarantismo del PD è fatto per difendere il PD, non per fare altre cose, cioè si difendono gli amici, solo gli amici, con i nemici non importa nulla. Pannella invece era uno che prendeva Toni Negro, Licio Gelli e ne faceva, diciamo così, campioni di una battaglia, poi l'hanno tradito, Toni Negro l'ha tradito. E ricordiamoci che senza il Partito Radicale che cosa sarebbe stata la vicenda Tortora, una delle pagine più nere del giornalismo italiano, una cosa disgustosa accadde in quei tempi, firme eccellenti che presero subito le posizioni dei magistrati, insomma il giornalismo italiano, non la magistratura, il giornalismo italiano fece schifo, letteralmente schifo, una campagna di linciaggio nei confronti di Tortora. L'unica forza politica, tra l'altro Tortora era il Partito Liberale, che però figuriamoci, certo, se impugnava una battaglia di questo tipo, e gli unici furono i radicali di Pannella, appunto, Leonardo Sciascia, e il garantismo, questa è una cultura, non so che è una parola, diciamo, abusata, trita, così come il suo antagonista il giustizialismo, no? Cioè, sono due definizioni. Però Marco Pannella ha insegnato a pochi di noi, a pochi di noi, che il garantismo non significa difendere l'amichetto proprio, perché è evidente che quello è una cosa che si è sempre fatto, significa difendere i principi fondamentali dello Stato di diritto, che sono poi i diritti dell'individuo, e quindi qui ritorna, il cerchio si chiude, cioè tra i diritti fondamentali dell'individuo è anche quello di essere processati secondo un giusto processo, con accuse circostanziate, senza persecuzioni politiche, anche questo era estraneo alle culture politiche dominanti. Questo è stato, diciamo, secondo me, il lascito politico. Dopodiché decine di errori catastrofici di Pannella non possono essere cancellati, e oggi se il Partito Radicale è ridotto, diciamo così, come è ridotto, lo si deve anche, diciamo così, a una sua ostinazione. Sì, complesso di Corona che ha sempre divorato i suoi figli e ce ne sono stati di grande livello, secondo me. Questo lo abbiamo detto e va ripetuto, purtroppo. Grazie anche di cuore a Pierluigi Battista. Ora strada. La versione di Oscar. Sulla strada di Pescara venne assalita dai parenti ingordi e scaricò le sue pistole in aria e regalò le sue parole ai sordi. E scaricò le sue pistole in aria e regalò le sue parole ai sordi. Eccoci qua, queste sono le parole che in una canzone faceva parte dello storico, almeno per la mia generazione, album Rimmel di Francesco Rigore nel 1975, le parole che nella canzone del Signor Hood, che era dedicata a Marco Pannella, appunto Francesco Rigore dedicava a Marco Pannella. Signor Hood, diceva, è un galantuomo sempre ispirato dal sole, con due pistole caricate a salve e un canestro di parole. E adesso, anche quando piove, lo vedi sempre con le spalle al sole, con un canestro di parole e calpestare nuove aiuole. Allora, l'ultima cosa che io voglio dire è che c'è un'altra cosa su cui voglio riflettere un secondo con voi, perché molti lo ricorderanno per con fastidio, anche per gli eccessi dei suoi scioperi della fame, della sete e così via, ma quasi tutti dimenticano il fatto che Marco Pannella è stato un uomo politico che per le sue battaglie violava pubblicamente la legge, dichiarando di violare la legge per sottoporsi ai rigori delle leggi che non approvava e di cui voleva, attraverso questo esempio, gli potevano violare i radicali sugli aborti quando erano proibiti, per la legalizzazione delle droghe leggere, per tante altre ragioni, andando incontro a decine e decine di procedimenti. E la stessa cosa, secondo me, bisognerebbe fare per alcune leggi che fondamentalmente nel nostro paese violano alcuni diritti naturali dell'individuo fondamentali, l'eccesso di pressione fiscale. Tante volte l'ho detto, organizzarsi dal basso, però pubblicamente dichiarando la violazione di leggi in maniera cooperativa, dandosi una mano con l'altro per poi affrontare i rigori dei processi e dei condanni, è una maniera che nessun altro politico italiano ha saputo praticare e proporre sulla propria pelle, ed è invece un'arma da considerare nell'arsenale di tutti coloro che credono, la maggior parte di voi in ascolto non ci credono, al fatto che esista un diritto dell'individuo naturale che viene prima di quello del diritto positivo, che viene prima non nel senso che disconosce le leggi approvate, le rispetta, ma alcune leggi vanno pubblicamente cambiate anche se non ci sono le maggioranze parlamentari, sottoponendosi a rigori della legge, dicendo va bene, condannatemi allora, purché questo serva a dibattere e a far capire che forse quella legge si può superare. Grazie a Marco Pannella, hai commesso molti errori, ma ci lasci un tesoro civile grandissimo.